Summertime di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno ad accompagnarci in questo mercoledì 5 agosto. Sono le note, l'avete riconosciuta, della Ida di Verdi. E allora la grande marcia trionfale alla fine del secondo atto. Perché? Perché questa sera uno spettacolo indimenticabile all'Arena di Verona è in scena, la Ida. E noi qui a Summertime abbiamo Walter Fraccaro, tenore, al debutto stagionale proprio oggi, il 5 agosto, come Radames in Aida. È già stato poi protagonista in Arena in questo ruolo, ma anche come Mario Cavaradossi in Tosca e Riccardo in Un ballo in maschera. Buongiorno Walter. Buongiorno, buongiorno. Allora, è sempre emozionante sentire la marcia trionfale dell'Aida, ma che cosa si prova ad andare in scena essendo il protagonista principale di quest'opera di Verdi? Ma guardi, l'Aida è un'opera bellissima, molto probabilmente è un'opera dove c'è una grande soddisfazione da parte del tenore, da parte soprattutto del soprano e di tutti i personaggi che ci sono. L'emozione è sempre quella, oddio, varia da teatro a teatro, ma in Arena è un'emozione un po' particolare perché ti dà questa proiezione di così allungata, nel senso che è piena di gente e a un certo punto ti rendi conto di questa massa di persone solamente quando incomincia un po' a far buio e che incominciano ad accendere le candeline, e allora tu dici mamma mia, ma la mia voce arriva fino a quel punto, e questa è sempre una grandissima emozione e anche da motivo di tensione anche. Infatti diciamo che il luogo ideale proprio per eseguire quest'opera è l'Arena di Verona, perché per una questione però di regia, perché grazie all'abbondanza dello spazio si possono creare le scenografie dell'antico Egitto. Poi è stata anche rappresentata al Cairo, no? Questa rappresentazione che ricordano tutti con le piramidi dietro, quindi lì la scenografia era reale, non c'era bisogno di fare grandi scenografie. Ma lei stasera il suo costume, quello lì classico, ci sono delle novità in questa regia, oppure invece è una regia di quelle lì tipiche, belle, verdiane, che farebbe felice Giuseppe Verdi? Penso di sì, questa è una regia tradizionale, molto tradizionale, bella in tutti i suoi aspetti, curata bene in tutti i suoi particolari. È una regia che piace alla gente, la gente viene, ci sono i cavalli, insomma andiamo proprio nel massimo della regia tradizionale, che sono anche, dico la verità, sono regie che a me piacciono in particolar modo. Poi sono aperto anche a regie meno tradizionali, però il filo conduttore deve essere sempre la musica, deve essere sempre il testo, e certe volte si esce anche un po' dal testo con certe regie. Comunque, volevo solo dire che io ho avuto la fortuna di cantare Aida a Luxor. Ah, perfetto, quindi anche lì con la scenografia naturale. Qui la scenografia dietro al tempio della dea Hatshepsut, in pieno deserto, con la regia di Attilio Colonnello, 900 comparse, lei non ha idea di cosa, dell'emozione vera vera che si poteva essere, perché è scritta nei luoghi, canta in quel luogo, cantata nello stesso, e quindi diciamo è un'emozione che questa la riscopro anche in Arena, comunque la stessa emozione, In arena ho la stessa emozione. Ecco, ma a Luxor, per esempio, il pubblico era italiano o era anche egiziano? Perché quest'opera fu commissionata da Ismail Pasha a Giuseppe sì. Verdi per celebrare l'apertura del canale di Suez. Sì. Facciamo un po' di storia dell'opera. Sì. E quindi quello che mi incuriosisce, visto che fu un egiziano a commissionarla, quando lei ha cantato lì a Luxor, chi era sì. il suo pubblico? Guardi, il pubblico era un pubblico, diciamo, a parte Mubarak, ma era un pubblico internazionale perché il richiamo è stato talmente alto che praticamente era un pubblico internazionale, cioè era un pubblico mondiale, dico, perché arrivavano dall'Inghilterra, dalla Francia, dall'America, dalla Spagna. È stata fatta un'operazione abbastanza estesa. Ecco, in arena invece le persone parlano, cantano, accompagnano l'opera quando magari ci sono le arie più famose. Le è mai capitato a un certo punto di sentire qualcuno che il pubblico era talmente tanto preso che hanno anche loro cercato di seguirla, ovviamente, in maniera anche goffa, però bella. Questa sì, forse non può piacere a tanti, diciamo, professionisti dove... Però diciamo questo fa parte dell'arena e in arena si hanno queste soddisfazioni, certe volte sono un po' esagerate, però tutto sommato sono ben accolte anche da noi cantanti, perché poi alla fine vedi che cioè, sei ricambiato generosamente, ecco, dal pubblico, e quindi e vedi che il pubblico partecipa. E non è facile, perché già, come abbiamo detto, l'arena, specialmente con queste temperature che superiamo i 30-35 gradi, rimanere seduti sopra una pietra, insomma, quelli, diciamo, per 4 ore e mezza, lei mi capisce? Certo, per 4 ore e mezza, perché tanto dura l'opera di Verdi. Poi sì. ci sono i primi 2 atti che sono un po' più movimentati, poi gli ultimi sì. 2 dove si compie la tragedia, no? Che sono sì. un po' più lenti. Ma sì. qual è l'aria che le piace di più? Beh, l'aria che mi piace di più è quella che mi dà più per riguardo nel mio e che mi fa più soffrire, è il Celeste Aida. È come al solito. È per quello che mi piace, perché ogni volta è una sfida. E certe volte mi chiedo, dico, ma come mai? Ormai ho più di 150 aire che ho fatto nella mia carriera. Però quando arriva quel momento del Celeste Aida c'è sempre non è paura, è diciamo una grande concentrazione. Ecco, passato quell'attimo del Celeste Aida, almeno a mio quello che succede a me, mi sembra che l'opera sia quasi terminata, cioè, oppure incomincio a divertirmi, non so se ho reso certo, l'idea. L'emozione è talmente tanto grande per il Celeste Aida, ma la cosa fondamentale che le voglio chiedere, sente un'emozione, proprio l'emozione della canzone, perché poi è la canzone che ci svela che Ramadès è innamorato di Aida. Sì, dentro a questa romanza c'è un... si svela praticamente il personaggio di Radamés, che è anche un poco traditorio, perché lui in qualche modo vorrebbe aspirare a questo comando dell'esercito, però sa che per diventare comandante dell'esercito e condurre l'esercito deve distruggere le cose che Aida ama di più. Quindi è anche un po' un problema per lui, però l'aspirazione del comando è talmente forte che l'amore per Aida passa in secondo piano. Allora noi ringraziamo Walter Fraccaro, le facciamo un in bocca al lupo e che crepi, come si dice in gergo. Ascoltiamo un brano non cantato da lei purtroppo, ma è quello che abbiamo trovato nella nostra discoteca di Radio 24, di Celeste Aida, cantata dal tenore Georg Solti. Beh, tu di mia vita sei lo splendor. Che tempi erano quelli? I tempi in cui gli uomini addirittura cantavano queste canzoni. Oramai sono un po' passati, ma noi ci piace ricordarli così. Francesco Girondini, buongiorno, sovrintendente della Fondazione Arena di Verona. Un programma, come al solito, ricchissimo quello di quest'anno. Buongiorno a tutti, sì, quest'anno è l'87esimo festival dell'Arena di Verona e quindi con un programma ricco come quello degli altri anni, con 50 serate dal 19 giugno al 30 agosto. E questa sera va in scena Ida in replica, mentre ci sarà anche una prima ad agosto, giusto? Sì, questa sera abbiamo Aida, che è il titolo più rappresentato in arena proprio dall'inizio nel 1913, quindi fra poco compieremo anche 100 anni, e poi il 15 agosto vi sarà anche la prima di Tosca con la regia di Ugo Deana. Ecco, ricordiamo le repliche di Aida, che sono appunto oggi il 5, l'8, il 16, il 18, il 21, il 27, il 30, insomma, è l'opera più amata? Ma sicuramente sì, insomma, diciamo che è quella più rappresentata in arena da sempre, quindi quella che riscuote un maggiore successo sia pubblico italiano che pubblico straniero. È appunto, si è iniziato nel 13 con l'Aida, nel 1913, ed oggi siamo arrivati a più di 540 rappresentazioni, quindi poi anche altre opere ovviamente sono amate, che sono le cartellone di quest'anno, come la Carmen con la regia di Zeffirelli, ma anche il Barbiere di Siviglia sempre con la regia di Deano, oppure la Turandot. Diciamo che noi alterniamo, ma l'Aida è sempre l'unica che c'è sempre ogni anno nel nostro cartellone. Ecco, si può considerare l'Aida l'opera italiana, no? Se uno dovesse scegliere, qual è l'opera che rappresenta l'Italia? Oppure è difficile, visto che quasi tutte le opere sono italiane? Ma penso di sì, credo che anche negli altri teatri sia comunque l'opera che ha avuto le maggiori rappresentazioni, quantomeno se prendiamo l'ultimo secolo, e anche forse del musicista più rappresentato come Verdi, quindi quello più celebrato, quello che forse ha lasciato anche il segno più importante nel melodramma italiano, quindi direi di sì, quantomeno per noi sicuramente lo è. E vedo anche, noi abbiamo forse anche il teatro che ha in Italia il maggior pubblico straniero, è l'opera più conosciuta all'estero anche. Allora, noi sappiamo però che voi avete organizzato il 24 luglio, e ci vogliamo ritornare, una serata un po' speciale con un tenore di fama internazionale. Allora noi sentiamo questo tenore, però non vogliamo rivelare chi è, poi tanto ce lo dirà lei, mentre canta con Santana, con Carlos Santana. E allora chi sarà? Beh, sentiamo. Someone in the dreams of my heart, I see your face calling me into the light. You are the vision of beauty, you are so radiant and lovely. I just cannot believe you are here with me. Your touch is my ecstasy. Placido Domingo, c'è stata questa serata di gala con Placido Domingo il 24 luglio, vogliamo sapere com'è andata, vogliamo sapere cosa è successo, è venuta giù l'arena? Sì, noi abbiamo fatto questo gala con Placido Domingo per celebrare i suoi 40 anni in arena, aveva esordito in Italia proprio in arena nel 1969, quindi abbiamo pensato con lui di dedicargli questa serata per il debutto in arena, ed è stato un grandissimo successo sia di pubblico e fortunatamente anche di incasso. Allora, io ricordo benissimo che per quanto riguarda l'Arena di Verona abbiamo un cartellone molto molto intenso. L'Aida, ricordiamo, da oggi in replica fino al 30, e poi invece una prima, come ci diceva lei, la Tosca il 16, giusto? Il 15 agosto è la prima della Tosca nel cartellone di quest'anno, e poi verrà replicata fino al 30 agosto con date del 19, del 20, sabato 22, di mercoledì 23 e poi di sabato 29. Tanto per la Tosca ci risentiamo, ma poi diciamo anche che il 6 e il 14 c'è il Barbiere di Siviglia. Esatto, esatto. E quindi io confesso anche... che è la mia opera preferita, il Barbiere di Siviglia. Sì. Fu fischiata, però. Sta avendo anche un grande successo. E poi in mezzo abbiamo anche un balletto con il nostro corpo di ballo al Teatro Romano, che sono i Carmina Burana, quindi anche con tre serate che iniziano proprio il 12 di agosto. E allora comunque ci risentiremo, Francesco Girondini, ricordiamo, grazie, sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, che tanto lustro dà al nostro paese. Un'estate fa la storia di noi due era un po' come una favola, ma l'estate va il meglio delle favole, favole. L'autostrada e l'ama ci dividerà, la mia strada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco. Torno a casa mia e torni pure tu, sono cose che succedono. Un'estate in più che mi regalerà un autunno malinconico senza te. La tua strada è là, ma ci dividerà la mia strada della segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco, poco. E adesso andiamo in Svizzera, precisamente andiamo a Locarno, dove c'è il Festival del Cinema che si apre questa sera, e abbiamo con noi Frederik Meyre, direttore del Festival. Buongiorno. Buongiorno. Quest'anno andate dal 5 al 13 agosto? Dal 5 al 15. Al 15 agosto. Sempre una decina di giorni. Sì. Una decina di giorni, ci sono tre concorsi di film. Sì, infatti c'è il concorso internazionale dove presentiamo magari i film più, diciamo, più importanti della selezione, i film concorso cineasti del presente, che è un concorso un po' più, diciamo, di opere tra virgolette più sperimentali, o che sono probabilmente i grandi talenti di domani, quelli che stanno cercando nuovi linguaggi. E poi il concorso di cortometraggi internazionale, che da anni è un po' un laboratorio e un posto dove si rivelano i talenti di domani. Quanti italiani sono in concorso? Perché sa, qui noi in Italia facciamo il tifo per i nostri. Chiaramente, quest'anno non c'è nessun film italiano in concorso, nel concorso internazionale, perché non l'abbiamo trovato, ma però nella selezione italiana fuori concorso in quella sede lì c'è La paura, il terzo lungometraggio di Pippo Del Bono, che non potevamo mettere in concorso perché gli rendiamo un omaggio enorme presentando tutte le sue opere cinematografiche, e quindi sarebbe stato ingiusto per gli altri. E invece nel concorso Cinema del Presente presentiamo tre opere tutte nuove in prima mondiale di registi italiani notevoli, che sono Pasquale Marazzo, Stefano Savona e Corso Salani, film molto diversi, una commedia musicale che Sogno il Mordo, il Mondo il Venerdì su Milano, Piombo Fuso, dove Stefano Savona è andato a girare nella fascia di Gaza proprio durante il conflitto, questa operazione israeliana Piombo Fuso, e Mirna, che è il nuovo opus ritratto femminile di Corso Salano girato in Argentina. Quindi insomma gli italiani sono presenti, però sente che c'è un po' una crisi del cinema italiano. No, non c'è una crisi, basta guardare il cartellone di Venezia, dove ce ne sono credo più di 22 di film italiani, quindi magari qualche d'uno che era a Venezia sarebbe stato anche buono a presentare a Locarno, ma questa è una lunga storia che non voglio fare qua. No, ma invece abbiamo anche noi una ventina di film italiani, perché abbiamo tantissimi film, diciamo come sempre, del laboratorio. Locarno è da sempre il posto dove giovani giovani registi italiani, dove il cinema italiano più indipendente è sempre stato presentato. Ricordo qualche anno fa l'Orchestra di Piazza Vittorio, questo piccolo film documentario su questo celebre orchestra che è stato presentato in prima mondiale. Molto divertente, molto divertente, no? D'Agostino Ferrante, D'Agostino Ferrante. Assolutamente. Sì. E quindi questo tipo di questa tipologia di cinema c'è di nuovo quest'anno con tantissimi documentari, con Grandi Speranze, con In un altro mondo, con tantissimi film sia documentari sia più sperimentali, che credo che siano appunto questi grandi talenti che magari un domani avranno e conosceranno grandi successi nelle sale italiane. Allora, andiamo per esempio a Locarno, una persona arriva e deve andare a Piazza Grande, in Piazza Grande c'è la proiezione, a che ora diciamo si proiettano i film? Allora, in Piazza Grande ci sono, in giornata ci sono, c'è la sede centrale di accoglienza dove ci sono gli uffici e tutto, quindi qualcuno nella sopracceneria può trovare tutte le informazioni necessarie, ovviamente la piazza però vuota perché in giornata non proiettiamo lì, proiettiamo invece in un'altra zona che è a 10 minuti a piedi della Piazza Grande, in un auditorio ricostruito interamente per l'occasione di più di 3.000 posti, dove presentiamo i vari film del concorso, dove ci sono ancora altre sale, però in tutto ci sono 11 posti di proiezioni, dai più piccoli ai più grandi, e però chiaramente è una piccola località Locarno, quindi nessuno, una persona che arriva in piazza e va in sopracenerina saprà tutto del festival in pochi minuti e da lì lo potrà fruire benissimo, in quanto la serata inizia sempre alle 9:30 precise, siamo in Svizzera, e da lì poi si protrae a volte fino all'indomani mattina, visto che quest'anno faremo addirittura una notte manga con film d'animazione giapponese fino all'alba il lunedì sera. Lunedì sera, quindi quando è questa notte manga? Lunedì 10, sarà una grande nottata legata alla retrospettiva, questo grande evento sull'animazione giapponese che coproduciamo col Museo Nazionale del Cinema di Torino, che poi dunque andrà a Torino a partire da settembre, che inizia la mattina con la prima internazionale del nuovo film della serie dei Pokémon, quindi il più commerciale possibile per le famiglie anche italiane vicine, alle 11 al Fevi, e poi continuerà la sera con Mobile Suit Gundam, il primo lungometraggio della serie Gundam, e vari altri film in prima internazionale, e si chiuderà con Akira, il famoso capolavoro Akira di Katsuhiro Otomo. E alla fine dei 10 giorni, il 15 agosto, il premio è il Pardo d'Oro. Prima il premio era una vela d'oro, ma dal 68 è diventato il Pardo d'Oro, che diciamo ha premiato qualcheduno dei più grandi registi del mondo, tutti appunto al momento del loro esordio. Ricordo per l'Italia qualcuno come Marco Bellocchio, che ha vinto il Pardo d'Oro con I pugni in tasca, ma tanti altri, Saverio Costanzo, insomma non posso qua dire tutti gli italiani che l'hanno vinto, ma da sempre c'è questa idea del Pardo d'Oro che è sempre andato a registi che poi hanno fatto delle carriere notevoli come Miloš Forman, Claude Chabrol e tanti altri registi che hanno poi marcato la storia del cinema. Quindi insomma portate bene, il Festival di Locarno porta bene, chi vince da voi poi avrà una brillante carriera, Friedrich Mayer. Diciamo che magari non è valido per tutti, però diciamo che il 90% dei registi presentati in questo festival, sì, poi il festival gli ha portato bene. Allora ringrazio Friedrich Mayer, direttore del Festival del Cinema di Locarno. Vi ricordo l'appuntamento dal 5 al 15 agosto, come abbiamo sentito, in Piazza Grande alle 21:30, e come ci ha detto Friedrich Mayer, bisogna essere puntuali, si è in Svizzera. E adesso ci spostiamo a Grado, dove questa sera apre il Laguna Movies 2009 dal 5 al 13 agosto. E con noi è Daniela Volpe, tra le curatrici del progetto A Grado, Isole della Laguna. Che cos'è? È un festival di cinema, è un festival, non lo so, perché io leggo piccoli schermi globali, cosa vuol dire? Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Laguna Movies 2009, come tema caratterizzante, porta appunto local, piccoli schermi globali, a indicare in qualche modo un percorso che vuole congiungere il pensiero locale con tematiche di respiro internazionale, e sarà proprio local il percorso caratterizzante delle due serate in Laguna al largo di Grado, a un'ora circa di navigazione dal centro storico proprio di Grado. mentre le altre tre serate del festival, appunto il 5, il 9 e l'11 agosto, sono in programma nel centro storico della città, nella diga Nazario Sauro, una splendida location con il mare e il golfo del Nord Adriatico alle spalle. Quindi è proprio per far conoscere queste località? Sì, il festival nasce proprio da una fascinazione per la laguna di Grado. Noi lo denominiamo un festival anfibio che si muove appunto fra terraferma e isole della laguna, quindi questo è un po' il cuore pulsante, il motore del festival. Poi tu mi chiedevi se è un festival di cinema, se è un festival di incontri. In realtà è naturalmente un festival che nasce intorno a un amore per il cinema e per le proposte che poi noi presentiamo sul grande schermo, ma che presenta anche molti ospiti e soprattutto ruota intorno a incontri, a personaggi. Si aprirà infatti questa sera con un omaggio a Sebastiano Somma, attore che tutti gli ascoltatori certamente conoscono, ma che noi racconteremo anche in un'altra dimensione, cioè quella di regista e soprattutto anche quella di produttore di un film, Il Mercante di Stoff, che sarà prossimamente sul grande schermo. Quindi fate vedere dei brani questo film? Sì, presenteremo diverse anticipazioni da questo film, così come anche dalla fiction, dall'ultima serie della fiction che tutti voi certamente conoscete, Un caso di coscienza, girata nei mesi scorsi da Sebastiano Somma e che vedremo su Rai 1 in autunno. Quindi ci sarà un incontro con lui, delle proiezioni e la possibilità di conoscere meglio questo personaggio. Interamente questa fiction è girata a Trieste, quindi insomma voi volete anche un pochino esaltare la vostra regione, il Friuli Venezia Giulia. Il senso del festival infatti è proprio questo, quello di valorizzare artisti, personaggi, energie creative che siano in qualche modo espressione del territorio, o perché no anche delle location appunto in Friuli Venezia Giulia, che hanno poi permesso di girare fiction o produzioni cinematografiche che poi sono in qualche modo passate a fare la storia del cinema. Penso negli anni scorsi alla Grande Guerra, all'Addio alle Armi, insomma moltissimi film che naturalmente sono famosissimi e che sono stati girati proprio in Friuli Venezia Giulia. Sì, poi noi, meno male, Trieste ci ricorda sempre Italo Svevo un po', no? Queste atmosfere. Sabato 8 agosto invece, a largo della laguna, lei diceva c'è un appuntamento all'esplorazione ai tempi dell'effetto serra, quindi una cosa che ha a che fare con l'attualità. Ed entriamo infatti nel cuore del Glocal. L'esplorazione ai tempi dell'effetto serra ci porterà proprio sull'isola di Anfora in laguna a approfondire un po' lo stato dell'esplorazione in Antartide, soprattutto poi sotto la spada di Damocle climatologica, appunto dell'innalzamento della temperatura. E ci sarà anche un collegamento in diretta con l'Antartide sabato sera con proprio una spedizione italiana in terra d'Antartide, ci racconterà quali sono così nuovi traguardi, le nuove frontiere delle loro ricerche. Il tutto coordinato e condotto da Pietro Spirito, che è un giornalista ed è anche uno scrittore italiano che si occupa in particolare poi di questi temi. E si continua l'11 agosto con duelli di celluloide, quindi anche qui invece si ritorna al cinema, ecco. E poi il 13 agosto sull'isola di Anfora, mi piacciono le ambientazioni perché ogni serata cambiate, ti ho sprecato per Allegria, adesso ti rigenera, che cosa vuol dire? Che è un incontro? Sì, è un incontro, anche questo nel segno del Glocal, con Massimo Cirri, un personaggio insomma sicuramente molto conosciuto, e con l'economista triestino Andrea Segre. Sia Massimo Cirri con il progetto Mi illumino di meno, di cui tanto si è parlato a proposito appunto del risparmio energetico negli ultimi anni, sia Andrea Segre con il progetto Last Minute Market per proprio la riconversione con utilità sociale dei cibi dei supermercati rimasti invenduti, ecco, entrambi si sono occupati proprio di riconversione delle risorse. Sappiamo che tonnellate di cibo nei rifiuti vengono appunto sperperate, l'energia stessa viene sperperata e insomma in qualche modo cercheremo di tracciare la mappa di una nuova possibile sobrietà per il nostro futuro insieme appunto a Cirri, Andrea Segre, e a conclusione della serata proietteremo il film di Ermanno Olmi, Terra Madre, che è uscito proprio in questi mesi. Poi volevo segnalare ancora una cosa, tu mi parlavi di Italo Svevo e c'è in effetti proprio domenica 9 agosto con un musicista che credo sia nel cuore di tutti gli ascoltatori, Ilario Luttazzi, una serata in qualche modo che così mette a confronto Emilio Brentani, quindi come dire un personaggio per antonomasia di Italo Svevo da senilità, e Antonio Centa, un attore anche lui nativo in Friuli Venezia Giulia, che probabilmente molti conoscono da molto cinema degli anni 30, 40 e 50, entrambi in qualche modo sollecitati dalle domande di Gloria De Antoni, autrice e regista poi di alcune produzioni dedicate proprio a questi personaggi per la Cineteca del Friuli. Insomma, ricordiamo che Laguna Movies 2009, piccoli schermi globali a Grado e Laguna dal 5 al 13 agosto, tanti eventi per scoprire questa bellissima regione che è il Friuli Venezia Giulia. Matres! A 3 settimane da oggi io mieterò il mio raccolto. Immaginate dove vorrete essere, perché così sarà. Serrate i ranghi! Seguitemi! Se vi ritroverete soli a cavalcare su verdi praterie col sole sulla faccia, non preoccupatevi troppo, perché sarete nei campi Elisi e sarete già morti! Fratelli! Ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità. Ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità, e beh, insomma, è la frase tipica del gladiatore interpretato da Russell Crowe e un po' che ha rievocato i fasti del cinema anni 50, quando a Roma si giravano i colossal ambientati nell'antica Roma, però anche che ci riporta all'antica Roma proprio, e all'antica Roma ci riporta anche una iniziativa che parte stasera e finisce domenica, e che è praticamente un'iniziativa a Fano dei Cesari, una cosa un po' particolare, i fasti dell'antica Roma, Fabio Barniesi, una manifestazione che deve far rivivere come si viveva nella Roma di Augusto, nella Roma di Cesare, nella Roma di Traiano. Che cosa avete intenzione di fare? Perché io leggo il programma, e già il programma è tutto un po', scusate se mi permetto, no? Anche interessante, però un po' da ridere, no? Perché c'è Porta della Mandria, mure romane, dimostrazione di antichi mestieri di epoca romana e accampamento dell'esercito sul prato alle porte della città. Cioè, le persone che vengono stasera alle 20:30 fanno dei Cesari, e io vedo che restano fino alle 24, vedranno un esercito romano fuori dalle mura della città? Sì, sì, veramente, rivedono, come si dice, una rievocazione di tutto ciò che succedeva 2000 anni fa a Roma. Cioè, c'è chi fanno gli antichi mestieri, ci sono, non so se i menestrelli o comunque insomma chi si occupa dell'arte già da quella volta, e tutti invece poi gli eserciti o coloro che, come i gladiatori, coloro che vivevano in quel periodo. Quali sono gli antichi mestieri che potranno essere visti da questa sera agli avventori che giungeranno a Fano dei Cesari? Io quello che le posso dire è che è veramente meraviglioso, è la cosa di sabato, e si parla della corsa delle bighe, della lotta dei gladiatori. Ecco, infatti andiamo allora a sabato 8 agosto, che è il momento sì. Clou. Voi sì. Organizzate una cosa tipo Ben Hur, no? Manca solo Charlton Heston. Sì. Perché sì. Fate prima... Zona Pincio, Arco d'Augusto, cerimoniali per i 2000 anni dell'Arco di Augusto. Poi ci stanno i cortei. Che cosa succede? Succede di tutto in questa notte? Sì, praticamente sono 4-5.000 persone vestite rigorosamente da romani, anzi con delle colori che hanno delle fazioni della città di Fano, e fanno questa sfilata per circa 400-500 metri sotto l'Arco d'Augusto, intorno al Pincio, dove c'è questa statua emblematica di Cesare Augusto, e poi cominceranno appunto la gara delle bighe, cioè sono proprio delle bighe vere e proprie, con i cavalli che faranno questa, che gareggeranno per far vincere la fazione che è da loro rappresentata, ed è una cosa molto suggestiva. Ci sono tutte le tribune intorno, insomma, praticamente lì in quel perimetro ci sono circa 15-20.000 persone che assistono a questo evento straordinario, perché con questo Arco d'Augusto storico che quest'anno compie 2000 anni, insomma, è veramente suggestivo. Quindi con le bighe tutte quante rifatte? Ma ricostruite? Guardi, le bighe sono le bighe, quelle di, non so, tipo di Cinecittà, le bighe di professionisti che le usano sempre per fare i film dell'antica Roma. Quindi sono quelle storiche proprio a livello cinematografico. Poi però io vedo che questa bellissima corsa di bighe, come erano i giochi del circo quando la gente a Roma e non solo, in tutto l'impero romano andava a vedere i giochi al circo, c'era la corsa delle bighe, poi però c'era anche la lotta con i gladiatori. Ora ce la deve spiegare questa lotta con i gladiatori, che cosa succederà? Io guardi, per la lotta dei gladiatori neanche farlo apposta, ho qua Alberto che è proprio il... Un gladiatore, ah sì, fantastico, allora vediamo se è emozionato di andare... Un gladiatore, quasi un gladiatore, è colui che è sempre vicino ai gladiatori, lo passo immediatamente. Perfetto. Io veramente informato su questo. Allora, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Allora, che buongiorno. Cosa fate? Quando c'erano i gladiatori al circo, no, moriture ante salutan, che cosa sì. facciamo invece? Voi Ma chiaramente diciamo non morirete. Però... No, è la novità di questa edizione della Fano di Cesena, noi siamo molto contenti di poter partecipare a Fano in questa iniziativa, sarà una notte in cui i gladiatori si sfideranno veramente a colpi di armi gladiatori e con anche proprio delle catene, dei pugnali, e saranno veramente una sfida molto, molto entusiasmante. Tra i gruppi che avremo ci sarà anche l'Ars di Nicandi, che è il gruppo che collabora con Alberto Angela per le ricostruzioni romane, e quindi sono poi il gruppo che fa i film storici più autorevoli, che ha fatto film storici, anche ha partecipato a Cinecittà, quindi diciamo che vogliamo che la città, che visto che ci ha chiamato, ci ha coinvolto in questa iniziativa, sia veramente una continua lotta di gladiatori per tutto, anche con spettacoli itineranti per tutta la notte. Ma le armi non sono comunque armi, cioè sono tipo spade di legno, come sono? No, le spade sono proprio quelle vere, sì, no, allora dovete stare pure attenti. I ragazzi sono assolutamente professionisti in questo, ecco, quindi sarà bello sia la battaglia proprio nel Pincio, dove verrà fatta, diciamo, prima della corsa delle bighe verrà fatta questa battaglia. E lì è proprio una sfida, una competizione, perché ad ogni gladiatore corrisponderà una fazione della città, che sono i quartieri della città, e poi dopo invece a spettacoli itineranti tra la gente, allora lì avrà più la forma dello spettacolo e dell'esibizione, mentre al Pincio ci sarà una vera e propria sfida. Ricordiamo allora Fano dei Cesari da stasera fino a sabato, culminando nella serata di sabato, una rievocazione dei fasti dell'antica Roma, e sabato anche una corsa delle bighe e una battaglia di gladiatori. Fano dei Cesari. Dei balli, di tutti i balli, è quello più sensuale. Stiamo parlando del tango, questa sera in uno spettacolo a Cremona, Divino Tango. Uno spettacolo elegante, sensuale, un po' particolare. Adrian Aragon della Passiones Company è il regista, nonché l'autore. Che cosa vuol dire tango per lei? Per me il tango è la nostra cultura, è un nostro modo di vivere, il tango significa tanto, per quello è un po' l'anima della nostra società argentina, no? Allora per questo anche le abbiamo messo questo nome Divino Tango, perché se la nostra anima è così divina è anche il nostro tango. Il tango ci ha portato a girare il mondo, a ricorrere questo mondo mostrando la nostra cultura, e ovviamente per me significa tanto, no? Ma è vero che il tango è un pochino maschilista, perché l'uomo che sembra non faccia nulla è quello che poi dà i comandi alla donna, che volteggia, o è un pregiudizio? No, questo è proprio un pregiudizio, no? Che il tango è come nella vita, l'uomo sempre propone e la donna è quella che dispone. Se la donna dice di no nel tango, anche nella vita non si può fare nulla. Io posso proporre del ballo alla donna, ma se la donna non riesce a capirmi, non riesce a risolvere quello che io le propongo, allora non si fa niente. In questo senso il tango a livello ballo, a livello è una cosa dei due, 50 e 50. Allora questo è un pregiudizio che sempre viene un po' fuori, perché sistematicamente dicono, bueno, che l'uomo come propone è un po' maschilista, ma voglio insistere, la situazione è molto, molto, molto del 50 e 50, no? Ecco, lei in questo spettacolo che cosa propone? Una visione particolare del tango oppure una visione tradizionale? Bueno, noi, le nostre proposte sempre sono state un po' particolari, nel senso che noi sempre andiamo a cercare di mostrare una città, un'Argentina attuale, con il nostro modo di sentire di adesso, no? Basato sulla storia del tango, semplicemente, sino basato sulle situazioni che occorrono adesso, che sono anzi molto, molto belle, molto suggestive, le nostre passioni di oggi, le nostre problemi sociali, con le crisi profonde che sempre vive l'Argentina. Allora, in questo senso i nostri spettacoli sempre si legano a questo modo di fare. E anzi, un'altra cosa, che non è soltanto cercare di mostrare la bravura di ogni coppia, no? Nel singolo movimento, sino che generalmente nelle coreografie cerchiamo dimostrare di fare un po' l'anima, mostrare con le coreografie un po' l'anima di quello che vogliamo mostrare di cada scena della Argentina e della Buenos Aires in questo spettacolo in particolare. Quindi non è una Buenos Aires degli anni 30 un po' mitizzata, no, è una Buenos Aires di oggi. Sì, di oggi, perché bueno, quella della Buenos Aires degli anni 30, del fine dell'Ottocento, già l'hanno fatta tante compagnie. Molto ben fatta. Noi volevamo mostrare quello che abbiamo, le nostre passioni di oggi, no? Ossia, quindi le persone stanno con i jeans, non lo so, oppure sono sempre rigidamente con un costume da tango, le donne con queste scarpe, no? Di capretto, mi sembra, quindi molto che costano un mutuo praticamente, per comprare un paio di scarpe di tango bisogna aprire un mutuo, no? No. Bueno, diciamo che ci sono delle scene dove ovviamente i vestiti sono più attuali, ci sono dei pezzi dove qualcuno utilizza il jeans, ma l'eleganza del tango sempre esiste, la sensualità del tango sempre esiste. Perché? Perché anche oggi uno va alla milonga a ballare il tango e si trova ancora che deve andare di giacca, qualcuno utilizza la cravatta, ma se non utilizza la cravatta, giacca, una bella camicia, un bel pantalone, gli scarpi sono fondamentali. Allora il tango anche nel spettacolo noi rispettiamo queste cose e la mettiamo lì. Allora l'eleganza sempre c'è, però quando vogliamo mostrare, c'è una scena dove si parla dello cartonero, dei cartoneri, che sono quelle gente che raccoglie i cartoni sulle strade, e bueno, lì sono degli abiti proprio apposta, come ci sono loro attualmente, no? Si è un po' con roba, un po' con degli vestiti molto più sportivi, molto stracciati, più, quasi, no? Molto più di strada, no? Capisci? Quante persone? Quante persone ci sono e quanti quadri ci sono? Sono 5 quadri molto legati tra di loro, cioè sempre c'è come un filo anche con la musica, un filo conduttore che ci porta, non c'è proprio un taglio, tu esci di una scena e praticamente entra sin renderti conto all'altra e ti porta direttamente. I ballerini, gli artisti siamo in 11. Bueno, artisti di primo livello, di prima condizione. Di prima condizione, tutti argentini? Sì, tutti argentini. Tutti argentini, perfetto. Allora, noi ricordiamo, questa sera a che ora? Alle 21, giusto? Sì, 21 all'Arena Giardino. 21:30, credo. Sì, 21, credo che all'Arena Giardino, sì. All'Arena Giardino a Cremona, Via della Ceramica, Adrián Aragón, che abbiamo sentito con la Passiones Company e con la passione del tango. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all the looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got identity. Circo, si fa presto a dire circo, si fa presto a dire un mondo che ci riporta alla nostra infanzia con i clown, gli acrobati, però da oggi, insomma, oggigiorno il circo tradizionale ci sta un po' stretto e allora si può vedere uno spettacolo tipo quello del Candido Dark Circus. Edoardo Danieli, che cos'è il Candido Dark Circus? Beh, il Candido Dark Circus è, diciamo che è un partiamo da una parodia del circo classico per arrivare poi a dare dei contenuti e delle storie da raccontare. Questo in modo tale da creare un nuovo circo che alla fin fine è quello che oggigiorno, diciamo, il pubblico vuole di più, insomma, vuole un circo che dica qualcosa e non solo che mostri dei numeri. Qui leggo: un circo grottesco con personaggi folli che si esibiscono in un circo fantasmagorico dove tutto può accadere. Una fanciulla botanica, figlia di un ricco e cavaliere potente, un'acrobata aerea francese alter e snob, un artista tuttofare latino e il direttore di un circo viscido e despota. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, ma è un circo dedicato ai bambini, un circo particolarmente acrobatico. Siete due compagnie, una di terra, una di aria. Com'è? Diciamo che Candido Dark Circus nasce da questa collaborazione tra queste due compagnie, una compagnia di circo teatro che nasce dal 2000, che si chiama Circo Teatro Danza, e un'altra compagnia che fa parte del teatro di strada storico che si chiama IMAPO di Milano. L'idea è nata innanzitutto dalla conoscenza di questi due gruppi che hanno visto che potevano interagire benissimo insieme e anche dall'idea proprio di iniziare a trattare il circo in un modo un po' più, diciamo, parodistico, nel senso che molte volte, diciamo, che il circo viene visto solo come esercizio fisico o semplice clown classico, cose del genere. Noi abbiamo voluto metterci dentro un po' di teatralità. Ad esempio, la compagnia di Milano è composta da un'acrobata di terra e da un'attrice di teatro che si è prestata al circo proprio per questo spettacolo. E dall'altra parte ci sono gli acrobati aerei, nel senso c'è l'acrobatica aerea e il fuoco, che fanno parte comunque di una tipologia di circo che ultimamente vediamo molto anche in TV, cose del genere. Da lì è nata l'idea di creare, di usare come pretesto il circo classico per raccontare queste vicissitudini di questi personaggi che sotto questo personaggio despota, che è in pratica il direttore di circo, che ha un circo che si chiama Candido, però lui non è per niente Candido, vengono in pratica un po' alla fin fine trattati male, soprattutto questa botanica, e vengono messi sotto da questo capo clown, questo personaggio. Però niente di questo è statico, tutto muta, quindi succederà che alla fine, nella seconda parte dello spettacolo, quello che avrà fatto il personaggio, questo capo comico, gli andrà contro. E quindi i personaggi si uniranno insieme a questa botanica e gli faranno capire che forse non dovrebbe essere così. Quindi della serie chi la fa l'aspetti, ma è un pochino tipo il Cirque du Soleil, tanto per capire il livello acrobatico? A livello acrobatico, diciamo che il Cirque du Soleil, diciamo che è un po' il modello, però noi abbiamo voluto, sì, ci sono dei numeri sicuramente di alto livello, però noi abbiamo voluto renderlo un po' più nostrano. Cirque du Soleil, no, nostrano. Un po' più nostrano, cioè nel senso che i numeri sono comunque di nuovo circo, soprattutto quelli aerei, hanno un perché, hanno un qualcosa che vogliono raccontare. Quindi anche per questo ogni numero comunque ha una sua storia e il pubblico lo capisce, e poi però diciamo che c'è tutta una componente che è italianissima, che è comunque una, diciamo, che ha a che fare con la parodia e con il circo grottesco o col teatro grottesco, che è tipicamente italiana. Allora, noi ci troviamo questa sera a Spinea, giusto? Sì, questa sera a Spinea, mi raccomando. In provincia di Venezia. Spinea, in provincia di Venezia, è uno spettacolo per tutto, per grandi e piccini. Vi aspettiamo. Ore 21:15, Spinea, provincia di Venezia, stadio Allende, con sì. Candido Circus. Ringraziamo Edoardo Danieli e io ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.